sul rituale di adorazione a Salah. Allah l'Altissimo ha detto: in verità l'esecuzione del rituale di adorazione è prescritta ai credenti in tempi determinati. Ma prima di illustrare il secondo pilastro dell'Islam, spieghiamo la purezza e l'abluzione. Cosa è la purezza rituale? Il rituale di adorazione non è valido se non è eseguito in condizioni di purezza rituale, poiché essa è il mezzo con cui si accede al rituale di adorazione. Se il rituale di adorazione viene eseguito senza condizioni di purezza rituale e senza abluzione, esso è invalido. La purezza rituale riguarda il corpo, il vestito, il luogo dell'adorazione. L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ha detto: la chiave del rituale di adorazione è la purezza. Come si ottiene la purezza rituale? La purezza si ottiene con l'abluzione, cioè con la rimozione dell'impurità dal corpo per mezzo della lavatura delle parti indicati nel sublime Corano e nella pratica del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Quali sono il fondamento scritturale e quello tradizionale dell'abluzione? Allah l'Altissimo ci ha ordinato di eseguire l'abluzione prima del rituale di adorazione dicendo: o voi che credete, se dovete eseguire il rituale di adorazione, lavatevi le vostre facce, gli avambracci con i gomiti, passatevi le mani sulle vostre teste e sui piedi, caviglie comprese, e se siete in stato di impurità purificatevi. L'apostolo, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ha detto: non ha validità il rituale di adorazione di chi non abbia fatto l'abluzione, e non c'è abluzione valida per chi non ha ricordato durante l'esecuzione di essa il nome di Allah. Quali sono le modalità di esecuzione dell'abluzione? Si esprime l'intenzione dell'abluzione dicendo: Nawaitul Udu Lillahi Ta'ala, nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Espressa l'intenzione, si lavano le due mani, polsi compresi, si sciacqua la bocca 3 volte, si pulisce il naso 3 volte, si lava il viso 3 volte, si lavano gli avambracci 3 volte, compresi i gomiti, prima il destro e poi il sinistro, si passano le mani sulla testa, si lavano le due orecchie 1 volta nello stesso tempo, si lavano i piedi, comprese le caviglie, prima il destro e dopo il sinistro. Alla fine si pronuncia la professione di fede. Quali sono le cause di perdita dello stato di purezza rituale? Le cause di perdita dello stato di purezza rituale sono: ciò che esce dai due orifizi, feci e urina, liquido seminale, ubriachezza, sonno, coito penetrativo anche senza emissione di liquido seminale o orgasmo femminile, toccamento dell'organo adamico con il palmo della mano senza emissione di liquido. Quali sono le cose da non farsi nell'eseguire l'abluzione? Fare spreco dell'acqua usandone più del necessario, eccedere nella lavatura facendola più di 3 volte, eccedere nello sciacquo della bocca da parte del digiunante al fine di evitare l'annullamento del digiuno, eseguire l'abluzione in un luogo immondo, parlare dicendo cose diverse dal ricordo di Allah. Come possiamo definire il rito dell'adorazione? Possiamo definire il rituale dell'adorazione come la colonna portante della religione, senza la presenza della quale non c'è Islam. Quando è stato reso obbligatorio il rito di adorazione? Il rituale dell'adorazione è stato reso obbligatorio nel corso della notte in cui l'apostolo di Allah fece il viaggio notturno e l'ascensione. Qual è l'importanza del rito di adorazione nell'Islam? L'importanza del rituale di adorazione nell'Islam è essenziale, e questo suo carattere di essenzialità è ben messo in evidenza dal fatto che esso, nel giorno del giudizio, è la prima voce su cui verrà fatto il conto. disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la bengloria. La prima cosa su cui verrà giudicata la creatura umana nel giorno del giudizio è l'esecuzione del rituale di adorazione. Se va bene, vanno bene anche tutte le altre azioni, e se va male, vanno male anche tutte le altre azioni. Quali sono gli effetti del rito di adorazione? L'esecuzione del rito di adorazione tiene lontano dalle sconcezze, da tutto ciò che è riprovevole, imprime rettitudine all'anima e abitua il credente al rispetto degli orari. Essa è un esercizio che fa bene al corpo e mette il servo in una buona relazione con Allah l'Altissimo. In ragione dell'importanza del rituale di adorazione e della sua posizione nell'Islam, il profeta Ibrahim, su lui la pace, chiese ad Allah l'Altissimo: «Signor mio, fa di me uno che esegua il rituale di adorazione e così fa dei miei discendenti. Signor nostro, ascolta la mia invocazione». Quali sono i tempi e quante sono le unità cerimoniali di ciascuno dei 5 riti di adorazione della giornata? Sono il rito dell'alba, 2 unità cerimoniali, il rito del mezzodì, 4 unità cerimoniali, il rito del pomeriggio, 4 unità cerimoniali, il rito del tramonto, 3 unità cerimoniali, il rito della notte, 4 unità cerimoniali. Descrivi come esegui il rito di adorazione dell'alba. Per prima cosa mi oriento in direzione della Mecca, Qibla, e dico: intendo eseguire il rituale di adorazione dell'alba per adorare l'Allah l'Altissimo. Allahu Akbar. Nawaitu an usalli salatul fajr lillahi ta'ala. Dopo aver eseguito il takbir della consacrazione, recito suratul fatiha e poi una piccola sura oppure delle ayat, almeno 3. Mi inchino dicendo Allahu Akbar e nella posizione di inchino dico 3 volte: sia gloria al mio sublime Signore. Subhana Rabbi al-Azim. Torno in posizione eretta e dico 3 volte: ascolti Allah chi lo loda. Sami Allahu liman hamida. Mi prosterno dicendo Allahu Akbar e in posizione di prosternazione dico 3 volte: sia gloria al mio Signore l'Altissimo. Subhana Rabbi al-A'la. Mi siedo pronunciando Allahu Akbar. Mi prosterno per la seconda volta dicendo Allahu Akbar e in posizione di prosternazione dico 3 volte: sia gloria al mio Signore l'Altissimo. Subhana Rabbi al-A'la. Torno in posizione di recitazione pronunciando Allahu Akbar. A questo punto ha inizio la seconda raka. Recito Al-Fatiha e alcuni ayat. Mi inchino dicendo Allahu Akbar e, inchinato, pronuncio 3 volte: sia gloria al mio Signore sublime. Ritorno in posizione eretta e dico: ascolti Allah chi lo loda. Mi prosterno dicendo Allahu Akbar e, prosternato, dico 3 volte: sia gloria al mio Signore l'Altissimo. Mi siedo pronunciando Allahu Akbar. Mi prosterno per la seconda volta dicendo Allahu Akbar e così prosternato pronuncio 3 volte: sia gloria al mio Signore l'Altissimo. Mi siedo sul tallone del piede sinistro dicendo Allahu Akbar, poi recito Al-Tashahud. Dopo la recitazione del Tashahud giro il mio capo a destra dicendo, mentre lo giro, Assalamu alaikum al-Taslim, poi giro il capo a sinistra e ripeto Al-Taslim. Questi sono gli aspetti fondamentali del rito di adorazione dell'alba per quanto riguarda le recitazioni. Ci sono altri elementi recitativi? Certamente sono al-istiftah, all'inizio dopo il takbir della consacrazione, la frase a'udhu billahi minash shaitani rajim prima della recitazione della sura al-fatiha, l'attahiyatu lillahi prima del tashahud e as-salatul ibrahimiyya prima del taslim. Sai a memoria la sura al-fatiha? Eccola. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. غير المغلوب عليهم ولا الضالين. Conosci i significati delle ayat di Surat al-Fatiha? Sì. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. La lode appartiene ad Allah, Signore dell'universo. Il sommamente misericordioso e clementissimo, il sovrano del giorno del giudizio. Te soltanto adoriamo e te soltanto invochiamo in soccorso. Mettici sul sentiero diritto, il sentiero di coloro sui quali hai riversato la tua grazia, con i quali non sei adorato e che non sono erranti. Conosci a memoria in arabo qualche piccola sura per l'adorazione e i suoi significati? Conosco la sura del culto sincero. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Che significa: nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, di Allah è uno. Allah è l'eterno. Non generò né fu generato, nessuno è coeguale a lui. Conosci la sura del sostegno? Sì. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, quando giunge la vittoria con il sostegno di Allah e vedi gli uomini entrare nella religione di Allah in massa, glorifica il tuo Signore e chiedi a lui perdono. In verità egli è l'accoglitore dell'invocazione di perdono. Conosci la sura dell'aurora? Sì. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri Hasidin idha hasad. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, di invoco la protezione del Signore dell'aurora dal male che creò, dal male della notte quando è fonda, dal male delle soffianti sui nodi e dal male dell'invidioso quando è in preda all'invidia. Conosci la sura degli uomini? Sì. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, di invoco la protezione del Signore degli uomini, del re degli uomini, del dio degli uomini, dal male del sussurratore che si ritrae, che sussurra nei petti degli uomini, sia egli dei jin o degli uomini. Conosci parole e significati della tahiyyat? Sì. Attahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Che significa? le laudazioni, i rituali di adorazione, le opere buone per Allah devono essere. Su te, o profeta, la pace e la misericordia di Allah e le sue benedizioni, su noi la pace e sui fedeli servitori di Allah. Conosci parole e significati del tashahud? Sì. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Attesto che non c'è divinità tranne Allah e attesto che Muhammad è di lui servitore e di lui apostolo. Conosci parole e significati della preghiera di Abramo? Sì. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka anta hamidun majid. Che significa: o Allah, esalta Muhammad e la famiglia di Muhammad, come esaltasti Ibrahim e la famiglia di Ibrahim, e benedici Muhammad e la famiglia di Muhammad, come benedicesti Ibrahim e la famiglia di Ibrahim sull'universo. In verità, tu sei il laudabile, il titolare della maestà. Come si svolgono gli altri rituali di adorazione che hanno 3 e 4 rak'at? Nel rituale di adorazione del tramonto, che ha 3 rak'at, il fedele procede come nel rituale di adorazione dell'alba, fino a quando dice: attesto che Muhammad è di lui servo e di lui apostolo, cioè al tashahud. A questo punto, invece di fare il taslim, si alza ed esegue una unità cerimoniale in cui la recitazione del Corano si limita a Suratul Fatiha. Dopo aver recitato tutto al tashahud e assalato l'Ibrahimia, esegue il taslim. Nel rituale del mezzogiorno, del pomeriggio e della notte, che hanno 4 rak'at, il fedele procede come nel rituale di adorazione dell'alba, fino a quando dice: attesto che Muhammad è di lui servo e di lui apostolo, cioè al tashahud. A questo punto, invece di fare al taslim, si alza ed esegue 2 unità cerimoniali, rak'atain, complete, nelle quali la recitazione del Corano si limita a Suratul Fatiha. Dopo aver recitato al tashahud e assalato l'Ibrahimia, esegue il taslim. Quali sono le cause di nullità del rito di adorazione? Le cause di nullità del rito di adorazione sono: la mancanza della condizione di purezza rituale, la mancanza di orientamento nella Qibla, il parlare intenzionalmente, l'esecuzione prima del tempo, il ridere a voce alta, il muovere il corpo, il verificarsi di un fatto che annulla la purezza rituale richiesta, l'esposizione delle parti del corpo che devono essere coperte, aura, il mutamento dell'intenzione, il mangiare o il bere durante il rito. Come avviene la chiamata alla preghiera? La chiamata alla preghiera, che si chiama in lingua araba adhan, viene eseguita quando entra il tempo della preghiera, a viva voce, da un musulmano con voce potente e bella, che si chiama muazzin, in italiano muezzin, da una torre nei pressi della moschea, che si chiama ma'zana, in arabo il punto da cui viene fatto l'adhan. Cosa dice il muazzin? Dice: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cioè dice 4 volte: Allah è più grande. Poi dice: ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, cioè dice 2 volte: non c'è divinità tranne Allah. Poi dice: ashhadu anna muhammadan rasulullah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, cioè dice 2 volte: attesto che con forza che Muhammad è l'apostolo di Allah. Poi dice: hayya ala salah, hayya ala salah, cioè affrettatevi al rituale di adorazione. Hayya ala al falah, hayya ala al falah, affrettatevi al successo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah è più grande, Allah è più grande. La ilaha illallah, non c'è divinità tranne Allah. Questa è la chiamata al rituale di adorazione all'entrata del tempo. Quando si deve dare inizio all'esecuzione, Iqamatus Salah, viene fatto un secondo azan, detto azan al-Iqama, con l'inserimento di Qad Qamatis Salah, Qad Qamatis Salah, cioè il rituale di adorazione a inizio dopo il secondo, affrettatevi al successo.